Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Nuova sforbiciata in arrivo, oggi la Banca Centrale Europea dovrebbe tagliare il costo del denaro portando così i tassi dell'Eurozona all'1%, si tratterebbe del settimo taglio dei tassi consecutivo, mosse molto aggressive di allentamento della politica monetaria condotte in Europa così come negli Stati Uniti per rilanciare l'economia, per sostenere l'economia in questa fase di crisi, una delle più pesanti della storia economica mondiale. Cosa significa però tutto questo? Parliamo del taglio che dovrebbe arrivare oggi alle 13.45, comunicazione da parte della Banca Centrale Europea di cui il direttivo è riunito già da questa mattina, e poi come sempre alle 14.30 conferenza stampa del numero uno della BCE, Jean-Claude Trichet. Dicevamo, cosa significa questo taglio per consumatori e risparmiatori? Arriva sicuramente l'ennesima boccata d'ossigeno per i mutui, ma certo non è molto contento chi non trova alternative di investimento e continua a parcheggiare il proprio risparmio in strumenti di liquidità a brevissimo termine, titoli di Stato e conti di deposito. E le persone che hanno scelto queste vie per parcheggiare il risparmio, per investire nell'ultimo anno, sono state moltissime, visto che il continuo saliscendi delle borse non ha dato molto incoraggiamento a tornare a puntare sul mercato azionario, anche se forse adesso magari qualcosa potrebbe cambiare, perché le borse stanno ritornando a crescere da un mesetto a questa parte, ci sono delle indicazioni relative a questo stress test, di cui tra l'altro parleremo domani a Salva Danaio, che non sono proprio negative come sembravano apparire negli ultimi giorni, per cui insomma qualche segnale di fiducia al mercato azionario continua a ripreso a darlo, vedremo se c'è da confidare in questi segnali. Detto questo, noi oggi però ci focalizziamo sul taglio dei tassi di interesse, a patto naturalmente che arrivi, perché poi potrebbero anche esserci delle sorprese, ma la così convinzione del mercato, degli operatori finanziari, è che il taglio ci sarà e tassi andranno all'1% nell'Eurozona. E dunque conseguenze sugli strumenti di investimento e sui mutui oggi con Maximilian Cellino, Plus 24, Il Sole 24 Ore, Francesca Tedeschi, Osservatorio Finanziario, e Giordano Beani, direttore investimenti BNP Paribas SGR. Numero verde per i vostri interventi 800 24 00 24, il numero per i vostri messaggi 349 238 6666. La borsa oggi, ne abbiamo già parlato nel corso del giornale radio, è una giornata piuttosto positiva per il mercato europeo, è stata una settimana piuttosto interessante per i listini internazionali. Abbiamo Parigi in crescita dell'1,73%, anche se la trimestrale di Société Générale ha deluso il mercato, il titolo scende del 6%, ma tutte le altre banche invece stanno crescendo. Dexia più 8,96, BNP Paribas più 5,75, Crédit Agricole più 4%, tanto per fare qualche esempio. Francoforte più 1,54, il listino di Londra, FTSE 100 più 2,26%, Milano, miglior piazza d'Europa, più 2,28 sull'S&P MIB, più 2,15% sul MIB. Sono proprio le banche stamattina a condizionare positivamente la seduta. Il Banco Popolare a Milano guadagna l'8,38% grazie ad una promozione di giudizio operata da UBS, abbiamo Unipol più 6, Tenaris più 5, Impregilo più 5, Unicredit più 4,63%, il titolo è a 2,14 euro, un mese e mezzo fa era 80 centesimi, vi dico solo questo, tanto per insomma tornare a commentare questi giudizi così particolari sulle banche che da mesi vengono attribuiti. Popolare di Milano più 4,15, Saipem più 4, Monte dei Paschi più 3,75, e ancora in corsa Mondadori anche oggi più 3,35% e anche CIR oggi più 1,75%. Segno meno invece per Ansaldo che perde l'1,30 e Italcementi meno 0,90, e poi abbiamo parlato nel GR di Fiat che oggi è una giornata negativa, perde mezzo punto percentuale, ovviamente ancora in fase di definizione la prospettiva di alleanza tedesca con Opel e la prospettiva di chiudere per portare a termine questa alleanza due impianti italiani, forse oggi ha fatto tornare un pochino di così pessimismo sulle titolo, ma insomma ha recuperato parecchio nelle ultime settimane proprio grazie a queste missioni di successo che Marchion ha condotto negli Stati Uniti, in particolar modo per l'operazione Chrysler. Tra l'altro, per Chrysler, una volta che la società americana avrà ultimato le procedure fallimentari, si prospetta proprio la guida di Sergio Marchionne. Poi abbiamo anche il possibile matrimonio, che ormai sembra qualcosa di più della possibilità, tra Porsche e Volkswagen, settore automobilistico in assoluto fermento. Euro su dollaro stamattina a 1,33,26. Brutta notizia dal petrolio, che è ritornato a $58 al barile. Questo è il quadro di mercato. Noi oggi però focalizziamo la nostra attenzione sul taglio dei tassi di interesse, che probabilmente arriverà fra un'ora e mezza, da parte della Banca Centrale Europea. La certezza arriverà nel primo pomeriggio, ma secondo le attese, oggi la Banca Centrale Europea taglierà ancora una volta il costo del denaro, portandolo all'1% dall'attuale 1,25%. Si tratterebbe così del settimo allentamento in poco più di 6 mesi, per un totale di 325 punti base. Ma quali sono state fino ad oggi e quali saranno le ripercussioni sui risparmiatori? Se da un lato la riduzione dei tassi rappresenta una boccata di ossigeno per tutti coloro che hanno contratto un mutuo a tasso variabile, dall'altro è uno svantaggio per chi avesse deciso di parcheggiare il proprio denaro in titoli di Stato o in conti di deposito ad alto rendimento. Per quanto riguarda i mutui, la sforbiciata della BCE si riflette in primo luogo sull'Euribor, che proprio ieri è sceso a nuovi minimi all'1,33%. Una buona notizia, certo, che tuttavia fatica a tradursi in rate più leggere. Questo perché, contestualmente al calo dell'Euribor, le banche hanno deciso di aumentare lo spread, ovvero il margine fisso, valido per tutta la durata del mutuo, che si va ad aggiungere all'Euribor per i prestiti a tasso variabile o all'indice IRS, per quelli a tasso costante, nel conteggio del tasso finale. Spread che a partire già dalla prossima settimana aumenterà di uno 0,10% per i mutui a tasso variabile con durata tra i 15 e i 20 anni e dello 0,15% per i fissi. Sul fronte dei titoli di Stato, che offrono già rendimenti ai minimi storici, la manovra della BCE comporta invece un'ulteriore discesa dei rendimenti, più o meno nella stessa misura del taglio del tasso di sconto. E a fronte di rendimenti in calo si assisterà a un rialzo dei prezzi. Anche per chi avesse deciso di parcheggiare i propri risparmi nei conti di deposito, le notizie non sono positive. I rendimenti offerti, infatti, non hanno più l'appeal dei mesi scorsi, quando, complici l'impennata dell'inflazione, i poderosi rialzi dei tassi interbancari e la necessità delle banche di finanziarsi a costi contenuti, offrivano ai risparmiatori tassi lordi del 5%. Dopo i ripetuti tagli effettuati dalla BCE, le banche si sono adeguate limando le offerte. Ultima in ordine di tempo, che banca, che da domani taglierà il tasso base del conto deposito, portandolo all'1,75% dall'attuale 2,6%. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi. Allora io comincio subito anche oggi con i nostri ascoltatori, perché sono molto attenti sulla dinamica dei tassi di interesse, perché ovviamente le famiglie italiane continuano ad indebitarsi per acquistare la casa, per fare anche piccoli prestiti, continuano ad investire e ovviamente il tasso di interesse investe un po' tutti questi ambiti. Allora cominciamo con Simone da Pesaro. Voglio sentire, Simone, la sua domanda, perché questo era il tema di partenza che io volevo affrontare con Francesca Tedeschi, ma molto volentieri lo faccio fare a lei. Simone, buongiorno. Anzi, no, mi scusi un attimo, volevo sentire Raffaele da Caserta, perché tra l'altro forse avete una domanda simile. No, Raffaele da Caserta. Simone, mi scusi, la sento tra pochissimo però. Raffaele. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Dalla provincia di Caserta e mi chiamo Raffaele. Niente, la mia domanda è questa. Visto tra virgolette il continuo ribasso dei tassi di interesse da parte della BCE, non si assiste praticamente all'analogo ribasso da parte delle banche, in quanto cercano comunque di aumentare sempre lo spread. Chi deve contrarre un mutuo alla fin fine non è che ritrova grossi vantaggi. E infatti, Raffaele, allora Francesca Tedeschi, cominciamo proprio con Francesca, che tra l'altro stamattina deve lasciarci un po' prima del previsto, per cui concentro il suo intervento nella prima parte della trasmissione per poi dare spazio a Giordano Beani e a Maximilian Cellino. Questo è proprio il tema del tuo ultimo blog, Francesca, su Osservatorio Finanziario, il tema sì, sollevato dall'ascoltatore. Sì, grazie Deborah e buongiorno a tutti. Sì, purtroppo è un po' questa la tendenza, infatti se oggi scenderanno come sembra di 0,25, intanto le banche, tutte quelle che noi abbiamo sentito nell'ultima settimana, stanno aumentando gli spread sul variabile di 0,10, quindi sul tasso fisso c'è un'altra novità anche qui negativa, perché chiede un mutuo che è senza pensieri, cioè che dura sempre con la stessa rata, e cioè da ieri l'Euribor a 15 anni, che per noi è un po' un segnale, è passato da 3,49 a 3,83, il che significa che non solo c'è lo spread più elevato, ma che si sta andando verso comunque nella prospettiva dei prossimi anni verso l'inflazione. Quindi chiunque in questo momento stia scegliendo un variabile, che comunque è ottimo perché il riferimento sarà l'1% o comunque poco più, visto che l'Euribor comunque ha un po' di tempo prima della sua discesa verso la quota della BCE, ecco, bisogna stare attenti sul lungo periodo, 10, 15, 20 anni, perché sicuramente un periodo di inflazione è previsto e quindi bisogna chiedere una rata compatibilmente anche con un possibile aumento. Ecco, questo tra l'altro è un tema che affronterò con Giordano Beani fra qualche istante, visto che avremo proprio il punto di vista degli investimenti, il punto di vista anche macroeconomico su quello che potrà accadere, dato che adesso si ricomincerà a partire su un livello di tassi di interesse basso, molto più basso. Siamo tra l'altro, Maximilian Cellino, ai livelli più bassi in assoluto che la storia della BCE abbia mai registrato per quello che riguarda appunto i tassi di interesse. Sì, siamo già ai minimi, i precedenti minimi, diciamo, del ciclo ribassista erano il 2%, che erano stati tra il 2003 e il 2005, li abbiamo ampiamente battuti, li batteremo ancora oggi pomeriggio. Siamo ai minimi per i tassi BCE, siamo ai minimi anche per quegli Euribor, che sono poi i tassi ai quali vengono agganciati i mutui a tasso variabile, che sono abbastanza vicini. Ora stamattina ho visto che l'Euribor a un mese è a 0,89, quindi addirittura al di sotto dell'1,25% attuale e dell'1% a cui la BCE potrebbe tagliare. Tendere, sì. E l'Euribor a tre mesi è all'1,33, tutti ai minimi. Ecco, tra l'altro, magari volevi intervenire anche tu sul fatto della diminuzione del saggio di sconto della BCE, il contestuale invece mantenimento, se non aumento, degli spread applicati dalle banche su prestiti e finanziamenti. Perché è necessario che le banche continuino a fare ancora un lavoro di questo tipo? Ma per quanto riguarda il rialzo degli spread, i motivi sono molteplici, e tutto quello, diciamo, se noi sentiamo la voce delle banche, le banche rispondono che per prendere il denaro a prestito devono spendere molto di più di qualche mese fa, prima del fallimento di Lehman. Tutta la crisi si è rovesciata un po', si rovescia sugli utenti ovviamente, ma prima di tutto si è rovesciata sulle banche, che quando devono andare a prendere a prestito il denaro per poi ripristarlo a loro volta ai clienti, lo pagano è un po' di più. Interbancario, e poi devono anche tener conto di un maggior rischio, di una maggior rischiosità del cliente, perché è ovvio che con la crisi ci sono più possibilità, ahimè, per le persone di non onorare le rate, e anche di questo le banche devono tenere conto. Tutto questo è la parte delle banche. Altri ragionamenti su quanto poi se ne stiano approfittando ne potremmo fare, sono abbastanza un'altra lunghi. Un'altra puntata di Salvadanaio. Esatto. Però la cosa che mi preme di dire è che la tendenza all'aumento degli spread è una cosa sì che sta aumentando vertiginosamente in questi ultimi mesi, ma va avanti addirittura dai primi mesi del 2008, se non dagli ultimi mesi del 2007, quindi molto prima della fase. Tra l'altro, quando abbiamo dedicato, te lo ricorderai Maximilian, tutte quelle nostre centinaia di puntate alla rinegoziazione dei mutui, perché appunto i tassi invece erano in una fase crescente, in realtà il parametro dello spread, anche se elevato, era, come dire, l'unico su cui si poteva far leva in una certa fase per far partire la rinegoziazione. Quindi magari adesso aumentano, però in un futuro speriamo magari che questo possa costituire ancora quel parametro su cui intervenire per poter, se i prestiti diventeranno a lungo termine ancora insostenibili, su cui intervenire appunto per rinegoziare con la banca. Beh sì, è un parametro variabile. Sì, è un po' un augurio, perché chi va a fare un mutuo adesso lo fa con spread abbondantemente sopra l'1%, chi invece è riuscito a tirare, a stringere la cinghia nel settembre, nell'ottobre del 2008, quando le cose si facevano difficili, adesso ha un mutuo molto competitivo, magari con spread, io lo vedo dalle lettere che arrivano, con spread anche 0,7, 0,8, 0,9, cose che adesso sono impensabili. Chi fa adesso un mutuo, soprattutto a tasso variabile, lo fa con rate per il momento bassissime. Nel momento in cui però i tassi Euribor inevitabilmente dovranno salire, si troverà con purtroppo uno strumento molto poco competitivo, con spread che vanno anche 1,2, 1,3, 1,5%. Giordano Beani, buongiorno e bentornato a Salvadanaio. Buongiorno a lei. Non sono stata molto carina, l'ho tenuta lì al caldo per qualche minuto. Allora, la riduzione dei tassi di interesse che verrà operata oggi in Europa, lo dicevamo dicevamo, è la settima consecutiva fatta dalla Banca Centrale Europea, ovviamente manovre di allentamento monetario assolutamente indispensabili per ridare fiato all'economia, al mercato monetario, e anche, come dire, sono state anche mosse necessarie per ridare un po' un segnale di fiducia in termini generali, ma a patto tutto questo, e in genere sempre una buona notizia per la borsa. Focalizziamoci per un attimo sul mercato azionario, perché oggi c'è una bella crescita per i listini europei, crescita riconducibile anche all'esito, lo dicevamo prima, degli stress test condotti dalla Federal Reserve sulle banche americane, eccetera. Ma in termini generali oggi è una nuova buona notizia, a suo avviso, per il mercato azionario? In due parole direi che è una non notizia per il mercato azionario, nel senso che siccome tutti stiamo aspettando che abbassino di un quarto di punto percentuale fra appunto un'ora e mezza o poco più, è ovvio che è una notizia assolutamente scontata, e quindi l'effetto, diciamo, di questi rialzi di oggi della borsa non sono certo legati alle aspettative sul taglio dei tassi di interesse di oggi, ma sono legati, come dire, ad un movimento che si è innescato nelle ultime settimane, in cui si è percepito che da un lato forse siamo fuori dalla crisi sistemica per quanto riguarda il settore bancario a livello internazionale, e dall'altro da alcuni segnali di miglioramento, dove per miglioramento purtroppo siamo ancora in una fase in cui il miglioramento è non peggiorare a tassi accelerati. Ecco, però questi due elementi hanno consentito nelle ultime settimane ai mercati di tirare un respiro di sollievo rispetto ad uno scenario che sembrava apocalittico fino a due mesi fa. Certo, movimenti però come quello di oggi, lo dicevamo, il settimo consecutivo, per non parlare poi del livello a cui la Banca Centrale Americana ha portato i tassi, cioè questo corridoio fra lo 0 e lo 0,25%, ma in ogni caso le banche centrali hanno garantito in ogni modo che potevano in questi mesi tutta la liquidità necessaria al mercato per farlo ripartire. Questa liquidità dovrà essere riassorbita prima o poi, e il mezzo con cui la liquidità si riassorbe proprio l'aumento dei tassi di interesse, perché sennò la liquidità genera inflazione. Ecco, un discorso magari un po' complicato per i nostri ascoltatori. Detto questo, secondo lei quando riprenderà il ciclo rialzista dei tassi, Beani? Cioè l'inflazione quando riprenderà a mordere al punto che sarà necessario riproporre la stretta monetaria più che l'allentamento monetario? Allora, io mi secondo il vostro che... osservatorio, ovviamente, quindi certo. L'ufficio studi di BNP. Certo. Sì. Noi intanto abbiamo appunto una previsione che i tassi a breve rimangano invariati, cioè dopo questo ulteriore taglio all'1% rimangano così fino, diciamo, alla fine dell'anno almeno, così come in America rimangano tra lo 0 e lo 0,25 ufficiale, cioè che la politica monetaria a breve sui tassi di fatto a questo punto rimanga per un bel po' di tempo ai livelli attuali, e questo è necessario perché se le autorità monetarie incorressero, diciamo, nell'errore di valutare alcuni segnali di miglioramento come la crisi è finita e tutto è alle spalle, è ovvio che potremmo ripiombare, visto che la fragilità del sistema è ancora molto elevata, in una situazione molto pericolosa. Quindi dal punto di vista dei tassi a breve non vediamo pericoli, diciamo, di inversione del ciclo di politica monetaria. Il problema, se vogliamo, è l'effetto sui tassi a lungo termine, perché è ovvio che il mercato reagisce liberamente soprattutto sui tassi a lungo termine, che sono quelli dove le banche centrali fanno più fatica, diciamo, ad intervenire, nel senso che o le banche centrali intervengono con il cosiddetto allentamento quantitativo, no? Cioè oltre ai tassi di interesse possono utilizzare manovre di mercato aperto, quindi intervenire acquistando direttamente titoli di Stato sulla parte lunga, come ha fatto la Banca Centrale Americana, ed ecco che allora riesci a calmierare sostanzialmente l'eventuale spinta rialzista sui tassi a lunga, dovuto al fatto che il mercato comincia a dire: ma se rimangono così a lungo i tassi bassi nella parte breve e l'economia si riprende, ecco che nei prossimi anni potremmo avere inflazione. Ed è un po' la reazione che stiamo avendo anche oggi, no? Se vediamo i tassi a lunga, che sono sempre a livelli molto contenuti, cioè sul decennale tedesco siamo al 3,30% e sul BTP decennale a 4,20%, però in questi ultimi giorni stanno pian piano risalendo. A Salvadanaio oggi anticipiamo, speriamo di non dare delle indicazioni sbagliate, quantomeno delle anticipazioni sbagliate, la decisione della Banca Centrale Europea sui tassi di interesse. Alle 13.45 il saggio di sconto nell'Eurozona dovrebbe essere portato all'1%. Cosa vuol dire questo per i nostri investimenti, per il nostro mutuo? Oggi ne parliamo con Maximilian Cellino, Plus 24, Il Sole 24 Ore, Francesca Tedeschi, Osservatorio Finanziario, Giordano Beani, Direttore Investimenti, BNP Paribas, SGR. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Francesca Tedeschi, sui conti di deposito cosa sta succedendo? Ma conti correnti e conti di deposito, soprattutto nella loro versione online, sono da tenere sott'occhio, perché è vero che, come avete detto all'inizio, si stanno adeguando al ribasso anche i conti che negli ultimi tempi hanno fatto molta promozione, ma ci sono ancora in questo stesso istante numerose offerte interessanti tra il 4% lordo e il 4,5% lordo, e ce ne saranno ancora di più. Ricordiamolo però che sono le promozioni, sì, ovviamente, dopodiché il tasso a regime fino a fine anno, ecco. Ce ne sono alcune a 6 mesi e quindi fino alla prossima ottobre, e ce ne sono altri fino a fine anno. Allora, queste sono cose da tenere presente, anche perché si tratta o di conti correnti o di conti di deposito. Attenzione che sono due cose differenti, sì. Ecco, da tenere presente. Il conto corrente ha anche una serie di servizi per il pagamento e per accredito stipendio, eccetera. Il conto di deposito no, è agganciato quindi solo a un conto corrente che oppure a una carta prepagata. Ecco, ma in un caso nell'altro sono a zero spese, quindi significa che è possibile, se volete, giostrare il proprio denaro, quindi gestirlo, che è poi la parola giusta in questo momento. Bisogna gestire il denaro provando anche piacere in qualche caso, perché in questo caso si guadagna, mettendo il denaro laddove è possibile guadagnare appunto più della media. Ecco, noi di Osservatorio Finanziario abbiamo fatto per la prima volta una parte dei nostri database dedicata anche ai conti di deposito. Si possono vedere quelli più vantaggiosi, e ce ne sono oggi appunto superiore al 4%, e ce ne saranno secondo noi altri nel futuro. Francesca, ti faccio ascoltare la domanda di un'ascoltatrice sui conti correnti da Bergamo, Silvana, benvenuta. Buongiorno. Ci dica volevo tutto. Fare questa domanda. Sì. Nel senso che io ho appena licenziato la mia banca, perché il mio conto corrente, nonostante i tassi di interesse scesi dalla Banca Europea, mi sta chiedendo ancora un tasso di interesse per il fido, per l'attività di mio marito, dell'8,5%. Sì. Ho chiesto che si potesse abbassare, visto, riallacciandomi al ribasso della Banca Europea. Invece... E mi ha detto no, ha detto aspetteremo prossimamente il ribasso del tasso di interesse. Però io dico, in questi anni, in questi mesi che la Banca Europea ha abbassato il tasso, gli interessi che abbiamo pagato dei conto correnti non sono scesi di mezzo punto o l'1% o dell'uno, diciamo. Silvana, comunque il tema è, per chi ha un fido, un prestito, un'apertura di conto, ovviamente il beneficio della riduzione dei tassi di interesse non lo vede. Silvana, la ringrazio molto. Francesca, perché? Rispondere a Silvana dicendo che la tentazione di licenziare viene spontanea, e noi abbiamo appena fatto una ricerca sui prestiti, quindi anche gli affidamenti in questo caso, ma noi abbiamo fatto sui finanziamenti personali. Ebbene, dico una cosa molto veloce, due dati incredibili: nonostante i tassi in ribasso, il TAN medio, quindi dei finanziamenti bancari, è salito dal 2007, quindi negli ultimi 2 anni, ad oggi del 19,6%, ma lo spread, quindi tenendo conto che quindi sono aumentati, ma lo spread applicato dalle banche sui prestiti è aumentato del 70%. Quindi se anche Silvana, licenziando la sua banca, ne cercasse un'altra, difficilmente troverebbe delle condizioni migliori. Allora, in questo momento posso dire a Silvana e così a tutti quanti una cosa: le banche vanno alla ricerca del buon cliente, noi andiamo alla ricerca della buona banca, loro vanno alla ricerca del buon cliente. Ma queste strade qualche volta non si incontrano, non si è mai capito perché. Se non c'è un buon cliente per la banca, il che significa un'elevata solvibilità, non si riesce a scendere. Nel mercato si trovano comunque, non a listino, dei TAN inferiori al 6%, però è molto difficile. bisogna essere buoni clienti, quindi dare garanzie, se no, ripeto, oggi i punti percentuali sui TAN dei finanziamenti sono cresciuti di 3 punti e quindi di un 19-20%, ma sulle finanziarie che stanno facendo moltissimo lavoro perché le famiglie non ce la fanno ancora a risolvere il problema né mutuo né tantomeno altri problemi più gravi, nelle finanziarie, ne parleremo in un altro momento, sì, mi auguro, sono aumentati il TAN del 45% e lo spread del 120%, quindi delle cose incredibili stanno facendo sui discorso tassi molto molto... Ci ritorneremo senz'altro, Francesca. Intanto, a proposito di ritorni, ritorniamo sui mutui con Roberto dalla provincia di Pavia. Roberto, sì. Roberto, sì, benvenuto. Buongiorno. Senti, io volevo solo sottolineare una cosa che non vi seguo abitualmente, non ho mai sentito. Io sto sorgendo un mutuo, sì, e ho visto che le banche che tutto sommato offrono uno spread ancora vantaggioso, intorno all'1-10%, parlo di un variabile, sì, alla fine introducono una clausola che la chiamano top floor, vale a dire al, sì, di sotto di una certa soglia di tasso di interesse, sì, sì, non ci vanno. Il pavimento, Roberto. Noi ne abbiamo parlato qui a Salvadanaio con Maximilian Cellino, perché questa questione è stata sollevata da molti lettori del Sole 24 Ore e da molti ascoltatori di Radio 24. Quindi lei, insomma, ha osservato questa cosa, come l'ha fatta presente alla banca? Sembra che uno alla fine vada a stipulare un mutuo variabile al rialzo, fisso al ribasso, insomma. Ma ha fissato contestualmente, Roberto, anche un cap, cioè un tetto al rialzo? No, assolutamente. Magari questo glielo potrebbe far presente la banca, perché se c'è uno scenario di fronte a noi di un aumento di nuovo dei tassi di interesse, perché questo nel lungo periodo potrebbe capitare, faccia presente anche questo aspetto al suo istituto di credito. Maximilian, ho dato un suggerimento del tutto fuori luogo? No, assolutamente non è fuori luogo. Magari la banca sarà difficile che possa accettare, però tanto vale tentare, magari accetta e non le fa più quelle condizioni di spread, perché i mutui con il cap, cioè non possono andare, i mutui a tasso variabile non possono andare al di là di un certo tasso interesse al rialzo, costano generalmente un po' di più rispetto ai mutui normali, a volte si accompagnano con questa, con l'altra, a volte ma non sempre, si accompagnano con l'altra clausola che diceva l'ascoltatore del floor, cioè non possono andare, ahimè, anche al ribasso. È un problema di cui molte persone, molti mutuatari si sono accorti in questo momento, perché magari il limite al ribasso era molto molto basso, nessuno ci aveva fatto caso, nel momento in cui gli Euribor sono andati così in giù, allora è scattata questa clausola. Molti, infatti, l'abbiamo scoperta sui contratti, sì, più che altro, accorti, perché nessuno si sono arrabbiati e non c'è molto da fare, perché se uno l'ha sottoscritta sul contratto, quella è una clausola e secondo interpretazione non è neanche una clausola, non può essere nemmeno dichiarata vessatoria. Una clausola vessatoria. Altra cosa, e qui un barlume di speranza lo posso accendere, e questa è proprio l'esperienza di alcuni lettori che avevano chiamato, avevano scritto a Mutui 24 lamentandosi, poi dopo hanno anche riscritto dicendo che sono andati dalla banca e dopo estenuanti a volte trattative sono riusciti a far abbassare il floor, e chi addirittura a farlo eliminare, per cui un margine di trattativa c'è sempre con la banca. Sì, infatti bisogna essere però delle controparti a volte anche piuttosto forti, degli irriducibili della trattativa, e però insomma proviamoci. Allora io pongo adesso invece a Giordano Beani un paio di domande di altri due ascoltatori, cominciando con quella di Augusto da Udine. Qui ritorniamo invece al mercato obbligazionario come luogo per il nostro investimento. Augusto, benvenuto. Sì, buongiorno. Ci dica. Allora, io volevo sapere come mai, essendo ribassati i tassi di sconto dal 4% all'1%, sì, dal 4,25% addirittura, quando Trichet aveva portati su questo livello a luglio scorso, sì, esatto, e il prezzo del BTP è del 39, quello lunghissimo, sì, era al 29 dicembre del 2007 100,4 e adesso è 99, dopo aver abbassato i tassi di 3 punti, mentre qui vicino vedo l'indice di volatilità è di 17, quindi avrebbe dovuto essere 17 punti moltiplicati per 3 l'aumento del prezzo. del BTP, che invece è rimasto fermo. E allora lei dice, insomma, il movimento dei tassi non ha avuto la contestuale dinamica del titolo di Stato a lunghissima scadenza nel nostro paese. Allora, facciamo vestire adesso Giordano Beani da economista, lo facciamo riflettere un attimo sulla risposta da dare. Io tra l'altro devo salutare anche Francesca Tedeschi. Francesca, alla prossima, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci, a risentirci. Eccoci di nuovo insieme, tassi di interesse da oggi di nuovo più bassi nell'Eurozona, quali effetti sui mutui, sui conti di deposito, sugli strumenti di investimento a noi più cari, in particolar modo i titoli governativi del nostro paese. Allora, avete sentito la domanda di Augusto da Udine, a cui chiedo una risposta. Giordano Beani, direttore investimenti di BNP Paribas SGR, chiedeva a Lumi a proposito dell'andamento dei tassi di interesse nell'Eurozona e il prezzo invece del BTP trentennale. Beani. Sì. Beh, allora intanto bisogna ricordare quello che dicevo prima, cioè le banche centrali controllano i tassi a breve termine, i tassi a lungo termine sono, diciamo, determinati dal mercato, da una serie di aspettative, soprattutto legate all'inflazione, legate al rischio emittente. Allora, che cos'è successo? Che mentre i tassi a breve sono scesi, appunto come ricordava il radioascoltatore, da 4,25 all'1%, nello stesso periodo la crisi finanziaria ha colpito, come sappiamo, banche e assicurazioni a livello mondiale, ma ha colpito anche gli stati periferici dell'Europa, sappiamo Grecia, Irlanda in modo particolare, ma anche l'Italia, per cui in quel periodo di tempo in realtà i tassi a lungo termine italiani, se non sono saliti, diciamo che sono rimasti stabili. Quindi l'effetto sul trentennale sostanzialmente è stato quello di incorporare un rischio emittente, quindi il rischio paese Italia, infatti, che non ha consentito di fatto ai tassi a lungo termine di scendere, tant'è che il famoso spread, cioè differenziale tra titoli di Stato tedeschi e quello italiano, è passato da 25 punti base dell'inizio del 2008 fino ai massimi di 150, per ritracciare adesso intorno ai 90, quindi intorno è un problema 800, di emittente. Sì. Benissimo Beani, io adesso invece ringrazio di essere con noi, perché tra l'altro ha pochissimo tempo, Cristian Miccoli, l'amministratore delegato di Chebanca. Buongiorno. Buongiorno. L'abbiamo tirato via a forza la conferenza stampa che il gruppo sta facendo questa mattina per illustrare i risultati di un anno di attività. Ci li racconta in un minuto, dottor Miccoli? Sì, sono passati 11 mesi dal lancio e abbiamo raccolto ad oggi 5 miliardi e mezzo di euro e aperto circa 170 mila conti. Quindi insomma un bilancio soddisfacente, tra l'altro in una fase, questo è il tema di cui stiamo parlando nella nostra trasmissione dottor Miccoli, in cui i tassi di interesse continuano a scendere, quindi in questo periodo la vostra clientela è tanta, dovete comunicare però che le remunerazioni stanno scendendo sui conti di deposito. Certo, però guardi, questo la gente lo capisce perché lo vede, quindi quello che conta in realtà è mantenere sempre un differenziale positivo, cioè i nostri tassi di interesse devono essere più alti di quelli che trova il cliente nella sua banca normale. Ecco, voi tra l'altro avete proposto conti di deposito di diversa tipologia, ovviamente vincolati ai conti a seconda delle esigenze del cliente. Qual è il prodotto che ha avuto maggior successo, dottor Miccoli? Beh, sicuramente il conto di deposito, perché anche perché poi la tranquillità che può dare un gruppo come quello Mediobanca è veramente impagabile in questo momento. Avete presentato anche qualche novità per i prossimi mesi o per il momento ritenete di voler mantenere l'offerta commerciale imperniata intorno al conto di deposito? No, guardi, abbiamo presentato un nuovo mutuo. Il mutuo risparmio l'abbiamo chiamato, perché è un mutuo in cui il cliente può gestire la sua rata riducendola semplicemente collegando il suo conto corrente o anche quello dei genitori, cioè avere il genitore che apre il conto nella banca in che banca dove il figlio ha preso il mutuo, sostanzialmente fa in modo che si abbassi la rata del figlio. Quindi è Però un mutuo in condivisione con i genitori ci sembra molto interessante. Adesso io so che lei deve scappare, non abbiamo tempo di approfondire, però guardi, è ufficialmente invitato a Salvadanaio in una delle prossime settimane per presentarci questa novità. La ringrazio molto, buon lavoro. Grazie, arrivederci. Maximilian, hai sentito il mutuo in condivisione con mamma e papà? Devo capire se è un mutuo di tipo offset, ci sono, cioè? Questi qui, è una parola un po' strana. Sì, dai, dopo il cap e il floor adesso abbiamo anche l'offset. No, parola un po' strana, ma sono dei mutui che vanno, ci sono anche in Italia, ma vanno per la maggiore nei paesi anglosassoni, dove gli interessi non sono calcolati sul debito residuo, ma sul debito residuo diminuito della quota diciamo, del denaro che una persona ha sul conto corrente. Mettiamo che io ho un debito residuo di 100.000 euro e sul conto corrente sono particolarmente ricco, ho 20-30.000 euro e gli interessi vengono calcolati su 100 meno 30.000 euro, 70.000 euro. E detto così sembra poco, ma in realtà è un buon risparmio, anche perché su un conto corrente si presume che una persona, una famiglia, qualcosa tenga sempre. Ci sono già in Italia questi mutui che fanno queste modalità, c'è un vecchio mutuo che si chiama Mutuo Alberto e ci sono dei mutui di IV Bank che hanno questo tipo di modalità. Probabilmente lo sentiremo prossimamente Miccoli, mi pare di capire che vorrebbe essere una soluzione simile anche da parte di Tebano. Insomma sì, ce l'ha detta così in diretta, adesso dovremmo prenderci un po' di tempo per analizzare bene questa nuova offerta. Invece un'altra domanda, sempre per i nostri investimenti per Giordano Beani, quella di Fabrizio da Firenze. Fabrizio, benvenuto. Sì, buongiorno. Grazie. Avevo una domanda un po' particolare, perché siccome non ho capito tanto bene questo strumento di investimento, e quindi chiedo appunto delucidazioni ai vostri esperti. In particolare c'è Lino che lo leggo spesso sul giornale. Sì, poi tra l'altro di questa cosa di cui lei ci vuole parlare ne scrive spesso pure, sì. Sì, no, praticamente siccome c'è in un'ottica di un rialzo dei tassi, c'è uno strumento che è un ETF obbligazionario short, che se ho capito bene dovrebbe replicare in senso, in questo caso inverso, la risalita dei tassi, ossia risalgono i tassi, l'ETF si dovrebbe apprezzare. Fabrizio, qualcosa di più semplice no, lei è attratto da uno strumento di investimento un pochino più complicato, la dinamica dei tassi e l'ETF che invece replica un indice di riferimento. Maximiliano, ne sappiamo molto di questo prodotto. Alzo bandiera bianca. Alziamo bandiera bianca, sono sincero. Di ETF ne stanno lanciando molti. Questo qui, short sull'obbligazionario, io non lo ricordo. Le prometto che ci studiamo. Magari se ci vuole scrivere Fabrizio, ci documentiamo senz'altro, ma magari Giordano Beani è, come dire, invece la fonte per dare una risposta al nostro ascoltatore, anche se ovviamente essendo una SGR magari non guarda l'ETF con grande piacere al mondo degli strumenti che replicano il mercato in maniera passiva. Beani. No, anzi, li guardiamo con assoluto interesse per metterli anche nei nostri fondi e nelle nostre gestioni. Perfetto. Visto che conosciamo le capacità dei gestori mediamente. E l'ETF short sull'obbligazionario può essere sicuramente un modo, diciamo, per coprirsi da un eventuale rialzo dei tassi, no? Perché funziona esattamente al contrario rispetto ad avere, come dire, un'obbligazione, cioè se i tassi salgono, sappiamo che c'è questa correlazione inversa con il prezzo delle obbligazioni, quindi se i tassi salgono l'obbligazione scende, se io sono short chiaramente il tasso sale e io guadagno con la mia posizione. Però anch'io inviterei generalmente, diciamo, un po' tutto il pubblico dei risparmiatori individuali a cercare magari strumenti, come dire, che non siano così sofisticati, anche perché spesso sono molto belli ma poi ci si lascia magari anche lo zampino su queste cose, come gli ultimi due anni hanno dimostrato. Per gioco, ma ovviamente destinare una parte minima delle proprie risorse disponibili a questo strumento lo può fare tranquillamente, però magari coprendosi con qualcosa di un po' più tranquillo. Esatto, io quello che magari suggerivo, al di là di poter utilizzare l'ETF, poi dipende da risparmiatore a risparmiatore, c'è chi è più familiare, chi è meno familiare con gli strumenti complicati, però se uno proprio volesse investire in qualche cosa per coprirsi dal rischio del rialzo dei tassi futuro, che poi è, che cos'è, è il rischio di rialzo dell'inflazione, forse prendersi dei titoli cosiddetti indicizzati all'inflazione è la cosa migliore da fare in questo momento, perché i titoli indicizzati all'inflazione scontano un'inflazione futura intorno al 2%. E essendo indicizzati all'inflazione, se l'inflazione va al 4, il rendimento del titolo continua a salire, no? Quindi è un modo per proteggersi, diciamo, da eventuali rialzi di tassi molto più, come dire, lineare e senza forse complicarsi la vita con andare short sui mercati. Benissimo, Beani, io la ringrazio molto per essere stata con noi questa mattina, ci risentiamo presto, grazie. Grazie anche a Maximilian Cellino. Maximilian, so che avremmo dovuto parlare di una marea di cose, è stata una puntata molto vivace, però insomma bella bella anche così. Sui mutui, perché molti ascoltatori ce lo chiedono, solo ed esclusivamente sui mutui, vi prometto, ci ritorniamo presto. Io ringrazio Gaia Romani e Valeria Coffaro per la collaborazione in redazione, Peter Bescapè quest'oggi in assistenza tecnica, finalmente oggi sono riuscita a ringraziarli. Intanto Salva Danaio torna domani sugli stress test, come saranno andati per queste banche americane. A domani, buona giornata.